condotto a mano per un pezzo e poi lasciato solo per la strada. Zitto a sopportare rabbia e frustrazione, afflitto d'avere visto assenze e delusione, dato troppi aiuti ed occasioni, sentito solo frasi vuote buone a camuffare situazioni. Stufo di aspettare, di sognare, cestino le speranze, lascio che il rapporto sfumi e vada male. Ok, capisco la separazione e il seguito, il disorientamento e le fitte dritte al fegato. Sicuro, ma un figlio si rivela un cambiamento e la posizione non giustifica il comportamento. No, correggimi se sbaglio, le mie ferite parlano e sul cuore ho giusto aperto qualche taglio. Il dolore brucia a volte sanguino, questo perché mi illudo spesso che certe persone cambino. Ma sono grato per l'educazione, riconosco il buon lavoro e non lo metto in discussione. Ma il piatto sopra la bilancia adesso langue, siamo ancora parenti solo per lo stesso sangue. Ed ora sto crescendo solo e senza appoggio, fatico a raddrizzarmi ed ogni tanto me ne accorgo. Che vuoi che faccia, chiudere il conto? Sono uno come tanti, prigioniero di sto mondo. Ed ora so com'è restare senza te. Resto solo qui, pronto a difendermi. Che non ci sto male, ho superato il peggio, fatto il callo e vivo più o meno normale. Ma le lacune a volte si fanno ascoltare, pretendono l'affetto e qualche gesto materiale. Merda, stavolta non mi aiuta, ricordo qualche cena, sì, ma per il resto scena muta. La fiducia ormai chissà dov'è, e se mi forzano a scommettere lo faccio su di me. Per quanto mi riguarda provo a farcela, ho iniziato a 15 anni ancora tento di cavarmela. Da tempo in casa manca un solido sostegno, rimarcato il territorio, adesso domino il mio regno. Non riconosco la famiglia, qualcosa si è spezzato e vagamente in certi aspetti si assomiglia. Sono costretto ad accettare, ma in testa tengo tutti i nomi e volti che ci tengo a ringraziare. Un forte abbraccio va a mia madre, a mia nonna, in piedi grazie a loro e Dio per loro una colonna. Farò da spalla a mia sorella, l'unione fa la forza, io ci credo e sono pronto a sostenerla. Sì, rinchiuso nel mio tempio, ricerco in ogni sguardo la certezza di chi mostra il buon esempio. È dura vivere qua fuori, considero la gente che è al mio fianco come fratelli maggiori. Ed ora so com'è restare senza te. Resto solo qui, pronto a difendermi. Di passarci su non mi interessa più. È impossibile per uno come me. Ed io lo so che mi capite, qualcuno tra di voi vive la mia stessa situazione. Io so bene quanto ci soffrite, chinate il capo e vi coprite, e più cercate un senso più lo odiate, più poi voi vi innervosite. Sentirlo dire vi fa male, lo so, deve spronarvi a non mollare, a fare quello che si può. Lottare per recuperare, reagire per ricostruire, alcune volte imporsi a dire no. Sicuro c'è chi vive peggio di me, questo è il calore di un abbraccio e tu sai bene cos'è. C'è chi invece non capisce e si dimentica, tieniti stretto ciò che hai perché non sai cos'è una perdita. La mia generazione assente, con troppo peso in tasca, messa lì senza valori nella mente. Chissà se un giorno lasceremo il segno, sono uno come voi costretto a dare sempre il meglio. A dare sempre il meglio, a dare sempre il meglio. Ed ora so com'è restare senza te. Resto solo qui, pronto a difendere.